camari. Tutta sera. E cosa stai facendo? A te lo comparezzo un rattoppo? Ah! Un sappuro a te lo comparezzo. E dove fai? E ha rotto a te lo pone. Pagami! Barabà! Tu li sei vendendo? Ah? Tu lo vendi? Ehi, te lo compri? Domani! Gommista che sei di... E via il portatore, lo sta vendendo lui. È vero. E lui. Ma... Oh, yeah. Per carità. Regala anche tappini di ruota. È vero, lo credono, regala. Ehi, a volte sì. Ma... Sarà... Ogni due rattoppi, 5 tappini in omaggio. Ah, Graziano, dillo. Ah, Graziano c'ha la macchina che non buca. Ma non c'entra nessuno. No. Tutti di Cina, ma so. Io sto guardando l'isola famosa. Ma ci andiamo nell'isola dei Barrosi? Ehi. Per il posto però, va. Troppi papatacci, lo so. Perché? Io gli avevo bisogno, eh? Sto sempre grattendo, che... Hai visto per i soldi cosa fanno? Senti, a forza di cose non mangi niente di chi. Come ti chiama? La noce di cocco. Carità, tutti i denari che fanno, zetti, di chi si? Sì, cara. Ma tu te le immagini, cara. La fammi sto partendo i taglietti. Da un ristorante alla fammi. Qui sono fatti di romare. Oh, un pesce di affeghi lì, Sant'Ono, io mi lascio un bel di pesce, ma non arrivano attrezzi, no? Sì, a rimane ribigliato un pesce balestra, e poi era 2 kg, sta bello qui, un bel pesce. C'hanno una lenza con l'amo e buco. E basta? Però già ne prendono di pesce. Già li ho visti che li hanno presi. Grossi pure li hanno presi. Ieri forse era 2 kg quello che hanno preso ieri. Io pigliate gli attrezzi quando devono in muro. E magari bisogna stare chiuditi di te, E allora? A chi tu ti mangi un pezzo e le moscerine si mangiano a te. Troppo. Ma che ti vede per i sai ieri? 3 mesi mi pare. Ma tutti gli dentali, Ma se fate sì che sono normale, senza trucco quanti sono fei. Questo bacalizzare, ma fei. E tu sai che? Hai che andare sempre a forza il trucco, poi quando si capa le fate di schifo. Posso fare, io hanno pure i mini trucco. Sei qua, dai. Oh, stanca il campeggio, figuriamoci lì. Che mi pesi a tracco. Ma che? È un grido. È un'esperienza di vita con tutti i denari che fanno. L'abbiamo fatta per una gretta, non di più. Poi siamo in appunto di stare qui a fare a fammi, a farmene magnà, dare i moscerini. Dai, vai. Ma è di non essere uscito. La notorietà è di voi, hai compreso? Bah. Io c'ho già Sarroni che fai. No. Mi sarrone vi so il punto. Oh. Cazzo, domani io non posso ingheggiare lì. Ma allora già sono sempre tenuti sott'occhio durante la notte. Capito? Non è che mi fate dentro un micussino. Da poi va Graziano con la carabina chi? Gufo, non rispondi no! Chi c'è si appena moglie ancora? In Platamona. Usci in piazza, a passeggiare Magnasciuna. Sì, aspetta un attimo. Aspetta, gufo triste. Gufo, tu c'è di caramelli, sei a. 1, 2, 3, prova. Là. Gianmari. Vai, sto salendo lì che devo passare da mia cugina. Vai. Cazzo, così di se bocce chissà. La sessata. Vabbè, sono giù, dai. Ok. 10 minuti sono lì. Ma chi so? Cabù, di giù pa. Che dentro gufo? Buffo, chiama lì, ce facendo c'è? Luca. E Lu. È la persona al quarto fine in quelle squadre, ma oggi. E Lu. Cazzo, lo strufai in un bagno. A fare voce mi dà paura. Aspetta. Solo uno ce n'era, Luca. No, due sono, boh, ma non vi grido. Aspetta. Luca, mica. Cazzo, non te lo fai in un bagno, non anda a mare. Ma anche l'altra volta c'erano lì a Sentino. Bubu. Più di due ce ne sono, si vedono le pinne anche. Graziano. Ehi, ciao, Otto, dimmi. Ma c'è che c'è? Al quarto pettine. Gli squali. Mi ha mandato il video, Luca. Ma lo sto guardando adesso. Di oggi. Sono verdesche di quelle che non fanno nulla. Squali sono, si sono pure umani. A cui non fa nulla. Sono proprio sotto costa, è un rifa. Ma non fanno nulla quelle, sono innocue quelle sono. Sono verdesche sono. Anche se sono grandi, non fanno nulla. Dimmi, neghissi. Ma io non mi fiderei di entrare a Muglio Gurgis. Sempre quattro squali sono, altro che verdesche. E vuol dire che è un bedebesso minore di inchivi. E te, dottore? No, è uscito. Che stai facendo, te? E tu dormendo stai? Sì, Luca. Da te. Luca. Ubi. Ah, quel brico center che ci ha portato. Ci sono gli scudi, c'è la moletta piccola della 39,90, 40 euro costa. La batteria? No, non ho guardato la batteria, a filo. La moletta della Sayer. Volantino c'hai? Sì, uno. E c'è anche il decespugliatore in offerta. Un 26 mi sembra. 89, 90 euro. Ho capito. Cioè, ce l'ho la molettina adesso. No, a me mi si ferma la strada. Ce la stavo usando. Boh, l'ho aperta, guardate i carboncini, ci sono. L'ho riattaccata. Ha rifugionato il settore da prima, ma la devo controllare, ma me la compro nuova perché ce l'ho più di 20 anni che siamo lì. Ma se ti serve, però perché non ti prendevo la batteria? Non ne va la batteria, prima o poi da voi si passa la batteria, no, è come l'avvitatore. A furia di stare fermo non funzionavano i batteri, infatti mi ho comprato l'uovo. No, la moletta a me mi interessa il litro, la batteria non è più. Vabbè. No, la mia già funziona, ma va regalata a Luca una. Ma dove? Cioè, ce l'ho la mola grande della Saglia, il metro Pumanna. Chi non ha giocato la bella la minorita. Però, a parte che poi c'è l'interruttore che lo devi spingere a molletta, capito? Invece quella della Saglia è interruttore, ed è meglio. Dottore, riprendi. Sì, comparata dirai. No, domani me la compro. Tanto si fa anche le consegne a domicilio gratis. Però sino al 17 marzo sono le offerte. Domani mandano un telefonetto e me la posso arricchire. Fai bene. Intanto quella che c'ho, tocco due sacco, un dito brissato innanzi all'interruttore. Come lo mollavi si fermava, perché è a molletta, capito? Vabbè. Da su tutti i buoni. No, questa invece è interruttore, poi che è della Spagna, è buona. E poi chissà ve la giù, più di 20 anni, ne ha fatto travaglio. Si sarà stufata, va. Stava funzionando e sei sudata. Ho guardato la spina, non aveva nulla. L'ho aperta, ho guardato i carboncini, sono buoni. la decostruiamo qua, dallo richiusa e affuzionato, si è tornato a fermare di te, e avanti la bellinucci, avanti non la giocava la bella, e non l'ha lasciata la parte. Sì, grazie, che non è finita, è finita. Boh, non so cosa l'ha pigliato. Un sacco di lavori li ho fatti lì con quell'amore. La uso anche spesso, a qualsiasi cosa si deve dargli a qualche cosa bellumice, perché è più leggera, già ce l'ho quella grande. Però, secondo cos'è, non ne vale la pena di pigliarmi questa manna, ce l'ho. Non la uso, cioè prima la usavo quando facevo lavori grossi, da. Adesso non l'ho più usata. È vero. Ehi, io. Cosa hai a portatore, grazie, cosa c'è? Quel bricco centermi, aspetta che prendo il volante. Si chiama bricco. Gente, ci sono le offerte, ci sono. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Certo. A Napoli, ecco qua. Si chiama Bricofer. Oh, e cosa c'è d'offerta, bello? Guarda se c'è la motosega, la motosega elettrica, quella col bastone lungo però è. Sì, l'ho vista, adesso dico, anche quella è un'offerta. C'è il decespugliatore 89 euro, bello. Allora, quello che stai dicendo tu, ecco la moletta qui, della Sayer, 40 euro. Eccolo qua, quello che stai chiedendo tu. È lunga la motosega, c'ha il manico e la spina della corrente, in punta c'è una motosega. In offerta costava 100 euro, 74,90 costa. Consegnata a domicilio, lunghezza barra centimetri 20. A te allora? Sì, costa 74,90, 75 euro. Aspetta, potenza 750 watt, lunghezza barra centimetri 20, lunghezza regolabile fino a 2,8 metri, pale in alluminio, catena e barra Cregom. E guarda se c'è quella che ti ho detto io. Mandamela sullo scaffo, fa la porta e me la mandi a vedere un po' se è quella che voglio io. E chi sa battagliare il rame in alto, quella lì. Aspetta, faccio la foto e te la mando. Capito, grazie. Se c'è, mandamela sullo scaffo. Aspetta che faccio la foto. E beh, tu, buonasera a me. Buonasera, Giomari. Ciao Mari! Buonasera Luca, anche a te! Buonasera, no. E beh, cos'hai combinato? C'hai il ci andati, sì? No, dormito ero. Hai fatto bene, almeno ti sei riposato bene. Mica te l'ho mandata! E adesso la guardo, va! Te l'ho mandato! Tore! E beh! Sì, cosa c'è, grazie? Un bel di roba c'è anche il compressore da 50 litri in offerta 100 euro, 99,90, costava 50 euro di meno. Sì, però c'è il compressore, quindi me ne fosse nulla. Un bel di roba in offerta. Mi c'è anche la sega circolare da banco, bella, 89 euro, 89,90 euro, là. Sì, un bel di roba in offerta, belle bimbi. Ciao Maria, hai dato di là? Già l'ho vista, già, ma ha perso il suo domani. Sì, aspetta, guarda che ti fa la consegna a domicilio se la vuoi, è gratis. Mi, lo sto leggendo qua, allora, aspetta, lo leggo. Mi, la GVS, allora. Allora, dove cavolo è? Aspetta. Ah, ecco, Porto Torres. Lunedì, sabato 9.30, domenica 9.30, dalle 9 alla 1, poi dalle 3.30 alle 7.30, la domenica. È aperto ed è in via Antonio Pigafetta. Domani ando e me la prendo. Si chiama Brico Fair. Boh, non lo so più via che sta via io. Via Pigafetta. Questa via Antonio Pigafetta. Sarà nella zona industriale. Sì, ecco, consegne gratis in 24 ore a casa tua. Offerte valide dal 28 febbraio al 17 marzo. Capito mia? Ho capito, grazie, che ero un po' disattento. Allora, è in offerta, è valida dal 28 febbraio al 17 marzo. E le consegne sono gratis a casa, ti la regala a casa, basta il telefoneggi. Una scappata, non costa niente, è già vicino, ragazzi. Vabbè, ma si cacca di uno al limite, non vi può andare. Basta telefona. C'è il telefono qua, e Sciavini, questo è 079-63-51-05, e di cui uno può pure telefonare. Ma io meglio che la ferma però prima, io la cosa devo vedere prima, com'è, come non è. Anche se l'hai vista in catalogo, ma dal catalogo a vederla in persona è diversa la questione, capito? Per cui vado, se la vedo che mi piace, la compro. È elettrico, è questo, non è a miscela. Si vuole una prolunga. C'era anche un signore dietro campagna da noi, chi l'aveva trattata a tagliarsi gli pari di lavicadiglia, quella in alto. Mi aveva tagliati tutti con questa specie di motosega. Ce l'ho io anche il giorno che l'ha fatto. Io ce l'ho, ma è troppo pesante, non ce la faccio, grazie. Io ce l'ho a pezzi 5 metri quella che ho io. È pesante, non ce la faccio, l'ho capito? A me mi serve una più leggera, ecco, anche se più corta, non mi interessa. Questa dovrebbe essere come quella che voglio io, capito? Però io ce l'ho, ma ripeto, è molto lunga ed è pesante. Gatta, vivo i brazzi, gli lampano i brazzi, sai. Magari a uno robusto va bene, ma a me no. Questa è più leggera, mi dovrebbe andare bene, capito? Sì, guarda, questa è leggerissima, perché la lunghezza è regolabile fino a 2,8 metri, quasi a 3 metri. Però è regolabile l'altezza, c'è scritto su la barra di taglio è di 20 centimetri e l'altezza è regolabile ed è in alluminio, l'assa, e la puoi regolare sino a 2,8 metri di altezza. Se ti sembri più corta, la vai più corta. Ehi, è come quella che voglio io, dai. Domani ci vado e se come proprio lì me la compro, capito? Perché mi serve. Io ripeto, ce l'ho, ma è più grande, è pesante, troppo pesante, sicché non me la voglio comprare questa qua che è più leggera, capito? Sì, no, questa è leggera. Quella che c'ha quel tipo in campagna da noi è leggera, e invece la molesta mi dubbiai e lascia vedere, potenza 150 watt, 115 mm impugnatura laterale della Sayer, Luca, lo sai che non se ne vede il figlio in quella moletta? Scommetti che è a batteria. Boh, mandami il Depliant. E come faccio a mandartelo il Depliant? Il Depliant, e cosa vede la moletta? Per la foto. Filo non ne vede, invece quel taglia rami si vede il filo. No, non viene il filo. Se quella non è, non lo dice qua, dice potenza 850 watt, 115 mm, millimetri, impugnatura laterale, c'è il codice. Non i dici smerigliatrice. Ma dammi la foto, così la vedo io, dai. Ok. Io Marì. Aspetta. Ehi, ce l'ho. Ne ho tre quelle normali elettrico, una batteria che l'avevo presa a Lucca, e quella batteria è bella, quella batteria sono belle, ragazzi, non so se l'hai vista quella che c'è a Lucca, io ce l'ho precisa, ed è comoda, molto comoda, l'altro tipo elettrico già ce l'ho, ne ho tre, così che magari a te, chi non ce l'ha magari serve, no? In casa servono sempre. Beh, diciamo che con la batteria è più comoda, Gio Marì, perché magari sei in un punto dove non c'è presa elettrica, è molto comoda. E allora qui è comoda, me l'abbiamo usata con Luca, abbiamo fatto ieri in campagna, non si può immaginare. E ce l'ho io, ripeto, ne ho una Luca e una io, ne abbiamo prese due, capito? Ma sono poi sono delle buone, capito? Sono delle buone, per cui abbiamo fatto l'affare veramente. Abbiamo preso i bei, così che quelle elettriche ce l'ho, per cui mi serve solo quella motosega elettrica, capito? Quella mi serve, quella che mi ha mandato adesso Graziano, quella è bella, è leggera, non è lunga come quella che ho. Caso pesa un trono, di la lampa di brazzi, di la lampa, poi non si può, devi allungarla per usarla, capito? E beh, quasi 5 metri, per cui non si può accorciare, capito? No, grazie, sì, Gio Marì, e beh, certo, quella è a filo, è dietro il filo, tranquillo, non è moletta batteria, quella. Oh! A filo va bene, no, a me già la voglio a filo e domani me la compro. Telefoneggio e ci mi arrivi a casa, tanto è gratis, il trasporto. La batteria c'è, cioè quella bricco qua, e costa 85 euro. Costa. Ed è marca buona pure, quella batteria. Ma batteria non mi interessa, io la voglio a filo, questa è di marca, è della Sali, 40 euro non sono nulla, è buona chissà. Una moletta a paccare, insomma, magari se uno lo usa per lavoro andiamo altri discorsi, ma uno che la usa per casa così, per hobby, certo, mi sembra che costi 14 euro a coso, lì di fronte al cimitero. L'ho vista io, mi sembra 14 o 17 euro, una cosa del genere. E ce l'ho precisa pure di quella, è bella, e possiamo bene. Vabbè, quella che c'ho, mi dà giù più di 20 anni, e poi c'è l'interruttore a pressione, col dito devi tenerlo spinto, come all'allente poco mi si chiuda. Poi la va la stradina, non trattenne, sei tu data due volte, se la giocata la bassi, la va non ha baito il manco, me la compro un'altra, e poi già l'ha fatto, non trovo più. Magari c'è una cazzata, però l'interruttore non mi è mai piaciuto, ma guarda che c'è quell'abrico, grazie. Nella zona industriale, vicino al porto, lì Bricco Fer si chiama. Bricco Fer? Sì, Bricco Fer elettroutensili. E adesso me lo segno un attimo. Va a roba campagna, tutto, molto zappi, e così, no? Beh, tutto. Tutto quanto. Martello demolitore. Poi un sacco di roba c'è. Poi c'è un decespugliatore di 240 euro. Ma chi c'è in mano? Ma io non ne posso usare un coso così in mano. Quello va bene a uno che fa spesso lavori. Così è Luca. Ho capito, grazie. Che c'è anche un decespugliatore, c'è quello in offerta, però è più piccolo, già mandava così, come quello che c'ho io. E ce n'è anche uno da 240 euro, però è professionale. E vedi, ma duro, chi sa andare a carotratta spesso al lavoro, capito? Ah, beh, certo. Aspetta che vado su internet, vediamo un po'. Si chiama Bricco? Bricco Fair, elettroutensili, Porto Torres. Torre, a te non ti compri niente. Ah, Torre, servono i soldi, Torre, basta. E cosa ne fai, ma Torre? Torre, con questa cosa ne approfitta in una mania. Comunque la moletta e la batteria la sto vedendo adesso. Cosa, la moletta? Quella che c'è qua. Oh, perdon, è a filo, sì. A filo di corrente. Dove l'hai vista? Su internet. Su un sito sono andato, Bricofer, online. E si vede. Aspetta. No, le faccio solo vedere, aspetta un attimo. Ah, no, io sto depriando qua. Ma ha portato Paoletta dall'altro giorno, lo dovevi abbaidare. C'è l'abitatore della Stelle. Bello, Ecco, da Trapano pure a percussione qua, è abitatore. Della Stelle, lo stesso. 750 euro, però già ce lo vale. Vabbè, ce l'ho nuovo questo. Se fai una spesa di 150 euro in uno o più transazioni nello stesso mese solare ottieni 2000 punti convertibili in buoni sconto carburante al distributore della Bricco Fair. Qui ti danno i buoni sconto di carburante, di la benzina. Ah, qua sto guardando la moletta che è a filo, comunque è a filo, 39,99 poi c'è il compressore 100 euro. Sì, il compressore è 90. Però c'è spugliatore, no? C'è spugliatore a benzina. Sì, c'è da 89,90, costava 119 euro. Costava, c'è il 24% di sconto e viene a costare 89,90 euro. Ecco, è uguale a quello che c'ho io questo, e funziona benissimo. Buono i abitatori, ma buono mi. Quale? Quello della Breckedecker da 150 euro, è della Sager. Io c'ho la molla della Sager. Mi dà giù un'eternità e l'ho usata, la mola grande. Oh. Da quant'è questo spogliatore, grazie? Bisogna guardare i cavalli, perché io ne avevo una di quelle piccole, non andava la macarruccio, guarda, capito? Da 33 in su andare bene. 43 cc, motore due tempi, potenza 1.1 kW. Taglio, diametro 42 centimetri. È uguale a quello che ho io, uguale identico. E mi raggio una vita che so io, in garage. Solo adesso non parte perché da un bel fermo, li devo cambiare la guarnizione del carburatore. Devo andare lì alla Sassarese agricola. C'era andato, gli ho detto la matricola e mi ha detto portami le guarnizioni che fai prima. Allora è attarrico le guarnizioni e ho il carburatore, capito? Perché quelle lì si sono seccate e non ti rubate pure in moto. Capito, Gio Mari? Vai c'è spogliatoio, c'è ancora quello che mi ha venduto tuo fratello. Quello lì, ce l'ho ancora quello lì, è un treno. Questo qua è 43 di cilindrata. E quelli vanno bene allora. Da 43 e da 54. La 54 però che è quella che te lo metti a zaino, ma quelli sono quelli grandi, capito? E pesano anche quelli, capito? Però quelli da 43 vanno benissimo, ce l'ho io quella lì, c'ho quella che ho preso dal tuo fratello e un'altra che me l'avevo comprato qua dalla Bricom. Ma chi è mio fratello? Mio fratello o fratello di Graziano? No, il tuo fratello era. E chi? Ah, ma adesso non mi ricordo se era Stefano o chi era, non mi ricordo. Ma già hai 2 anni già. È la prima cosa che sento. Ehi, tra l'altro l'ho detto anche l'altro giorno, cazzo. Sì, da lui l'ho preso, adesso non mi ricordo però chi era proprio, ma mi sembra che era Stefano, mi sembra, siccome l'ho visto solo una volta e basta. Non ho capito niente, Giovanni, ti ha cazzicato Graziano. Cado mai, sempre a Mattesie, il dito facile. Comunque qua, sto guardando, c'è anche una sega lunga, tipo motosega, dai, lunga per tagliare i rami. Ma sul computer stai guardando lui? Nel telefono, si sono andato sul sito. No, sul telefono ci riesco a trovarlo, capito? Magari sul computer sì, ma sul telefono no. La divisa per lavoro, belli questi pantaloni, 30 euro con la maglietta, belli, eh. Avanti, bello, bello, parla adesso, dai. Ehi, c'è un bel di roba bella. Si compra bene, si compra. E se non approfitta un grande bisogno, questi sconti così, vedi, c'è un sacco di roba, anche dolce, caldaie, c'è una caldaia in offerta, 200 euro, Gustavo costa 129 euro. Lo scaldabagno, c'è anche 3 anni di garanzia, 70, 70, 80 euro, va. 3 anni di garanzia. Ce n'è. Invece l'antenna per la TV 12 euro, 13 euro. Vero tubo, balleva, un scavo per antenna, parabolica, plafoniere, un sacco di roba. C'è la scala, quella che allunga un peggio, Marino. 80 euro, portata massima 150 kg, scala trasformabile stilo 3x7, 7 metri allunga. Quanto? Allunga 7 metri, in alluminio, c'è anche la barra in basso, quella larga, per non darsi di volta la cara. Ah no, non mi servono. Oh, non mi serve. Oh, quella che c'è, quella che ho preso la bricolici al mercato. Allora c'era la bricolici al mercato. L'ho pagata 100 euro, l'avevo pagata. Ma è buona, è di Scivoni. Ma oh, è cazzo, quasi 5 metri. Ma pesa un bel, poi non si può accorciare diversamente. C'ha 3 elementi, 3 bastoni che si aggiungono uno con l'altro. Però quando la smonti diventa 2 metri, diventa, capito? Però è troppo lunga e non, pesa troppo, capito? è troppo lunga, per cui non ce la faccio io, per dire, lei non ce la faccio a mantenerla. Taglia che è un treno tagliente, però che spesa che la malattia, se la pari prazzi non è possibile, capito? Qui già la vista anche Luca, per cui è troppo pesante, non va bene, ci vuole uno forte, ci vuole, ragazzi. A me mi le rappa i brazzi. No, è come lo scuotitore per le olive. L'ho provato 5 minuti, ma sul drunato. La bicicletta è già mi tratto la canna, la capigino e fa a me. Ma tutto sul drunato, ma... È quella che ho io così, capito? È troppo pesante. È troppo pesante, poi già c'ho i tendini partiti delle braccia, si può immaginare, no, invece io l'avevo vista a cosa, a Lidl, l'avevo vista della Parchesina, marca della Parchesina, ed era buono, no, però non vado mai pensato a pigliarla, però ma che mi servia, non ha già avuto il logo, infatti sono sempre a Berdenti che sono da Lidl. E non li sono fuori, sono preso molto le cose, ma chi se non ha le bocce a più? Allora, io domani ando a Porzogiorra, dai la vengo come te, se mi piace che proprio metto con lì un piglio me la piglio, capito? Almeno leggera e posso tenerla in mano, capito? Sì, ma questa è le tre prova. È un bel leggera, io l'ho già vista così, quello che sta, l'ha usata vicino a campagna. È come ti fa un colpo in mano, è leggerissimo. E funziona burro, adesso guidaglia, è veloce il burro. È bella, no, è leggerissima. L'ho vista, c'era quello vicino. Cazzo. E sono corte, infatti sono belline, dai, e fanno bene, sì. L'olio, si deve mettere sempre l'olio, ci vuole sempre l'olio, c'è il serbatoio piccolino, quando, prima di usarla, se non c'è olio, mi lo devi aggiungere, e lei lavora sempre perché so che lavorano bene, capito? Già lo so, e beh, se ti la pigli che vi vende il burro usato, fa la catena, te lo compri lì stesso, tanto che sei chivi così vai tutto pronto. Mi senti? No, già son bene, io l'ho vista funzionare, è veloce il burro, già son belline. Eia. Vedo il portore! Eccolo! Poi c'era anche a Bacchisio, se viva, non so se ce l'aveva presa a Bacchisio oppure no. Già che dirla a Bacchisio, Infatti bisogna dirgliela a Bacchisio, già l'avevo sentito l'altra volta parlando. E infatti, c'erano, io sono salito e non c'era più. E serve anche a Bacchisio. Se entra magari glielo diciamo così che... Se la vuole prendiamo due e va più bene. Attenzione, mi sentite? Chi è? Oh, mi senti? Ti sento, chi sei? Ehi, Antonio, e tu chi sei? Antonio, Giuseppe sono. Giuseppe, sì. Ciao Giuseppe, come va? È percolato, A cavolo, sono contento di sentirvi. Non ho capito niente, grazie. Chi è? Chi sei? Chi sei? Antonio, l'ho detto già due volte. È pergolato, Ehi, lui, il pergolato, bravo. Ho visto che indovino sempre io. Ciao Maria, Antonio, il pergolato, non lo senti? Ce lo sento io allora. Ciao Maria, Antonio il pergolo, il pergolato. Che sto fuori dentro. Ti aggiunta Giovanni, ciao Maria. Mi stava salutando a te, Antonio. Non l'ho salutato, ho segnalato che l'ho sentito già. Va bene, ok. Buonasera anche a lei, signor Antonio Pergolato. Vai, Tore! Tore non c'è, Tore è stato a prendere il 50. Luca, riprendi tu allora. Via. Ehi, e cos'è? Fumennici, Luca. Abbassa fuori, sta stagendo. Boh, in camera pure fuma. No, in camera no. Digli di uscire fuori il terrazzo. Oh, ia, ia. Pergolo! Pergolo, non stai uscendo. Antonio Pergolo è rimasto pergolato, Luca. Ah, tu! Oh, cosa dico? Vabbè, non mi sento nessuno. Come è arrivata a riserva? Con luci ruglie. Antonio, tu ti scorreggi, stai uscendo, boh. Mettiti dove vedi. E dove sei, Antu? Sono da Poligo, non mi sento più. A te ti sento bene, gli altri non mi sento più. Picca, ma manca Gio Maria. Avanti Gio Maria, lo senti, Antonio? Sento bene pure, è a Puglia. No, Gio Maria, sì, a te gli altri sento. No, a lui no. Non stavo parlando, non potevo stabilire se lo sentivo o no. Sì, sì. Ciao Gio Maria, ti sento benissimo. Ehi, si affonda scala qua, cazzo. Non credo. Anche io lo sento bene, dai. Ha un piccolo rumorino, forse magari come sta camminando in macchina. Poi già lo sento. Grazie, tu devi mettere l'antenna sul tetto. E io, poccazzo, lo sentivo bene, adesso lo sento tutto tratteggiato. Oh, tipo la farmetto morso. Lo senti così perché lui è un pergolo. Oh, tu, ma tu non sei al monte? No. Qua in zona, 60 metri di Pisa. Infatti me ne sono accorto, perché non so, man mano che salgo cala un po' il segnale. Lo uso qua, giù non mi sento nessuno. Meno male qua sono vicino a Graziano, a Torre, insomma. Tutti qua in zona sono, ecco. Poi qui ci vogliamo bene tutti quanti, vicini vicini. Vero Lu? E allora? Ma tu l'altro giorno quando hai chiamato, Anto, eri su al monte, no? Ma vedi, magari a casa arrivi, sicuro arrivi. Solo che, vabbè, da lì a qua è diverso perché è più, come si dice, è più, lì nei palazzi, ci sono palazzi vicino a casa, magari non ti sento. E vabbè, andiamo a vedere, dai, c'è anche quelli... Diciamo, quelli che uso quando mi esce qualche lavoretto, quelli sono 8 km, 10 km. Quello che fanno io adesso, 10 km. Vanno benissimo, viene pari buchi, burro, poi siamo vicini anche. Andare avanti, Gio Maria, mangiato le frittelle oggi? No, ieri le ho mangiate, oggi no. Cazzo, devi mangiare i frugioli, no, non saranno. Graziano mi ha mangiato un giardino, ma io no. Vero è Grazia. Ehi, no, martedì è qua, oggi non aveva gana. Oh, vedo un po' se c'è Bacchisio, Bacchisio, va, ogni sera è in mezzo, oggi capita, si è tappato, cazzo. Allora, io ho visto lì... la piazza dell'Alta Dolce, di fronte a Barsanna, che c'è festa di carnevale, e sicuramente Tore si è vestito con un Bacchisio e sono andati lì a mangiare le frittelle. Non credo, no. Tore è andato a abbigliare altri quanti, così che non credo che vada lì, no. Non ci credo, no, lui, dai. Oh, può essere anche, può capitare che vanno anche lì qualche volta, non è che è difficile, no? Tu l'hai mai sentito a Pergolo, Gio Mari? Ah? A Pergolo, mai sentito l'hai? No, no. Antonio Pergolo, ma nuovo sì, Pergolo. E te? No, siccome c'è anche Antonio Bombolo, capito, in mezzo. No, ma tu non ha bombola, ce l'ha venduta. Lo cambierà a petrolio, cambierà allora. A tu. Boh, boh. Poi tanto bisogna di un altro, Grazie. Eia, Luca Flipper, avanti. Hai capito chi è Giomari, sì? Ehi, niente, ma insomma, mi lo sembra già oggi. Che cazzo, è male che da 20 anni che non entrava. Babbo, e oggi ha traslocato, oggi è vicino a me, capito? Oggi è vicino a me, per quello che arriva forte. Comunque è vero, quegli squali a quarto pettine, sono squali. E ce l'ha fatto questo nostro amico, là, che frequenta il circolo, il suo collega li ha ripresi. E a tanti video ne ha fatto rubagni in chivi, con gli squali. Guarda che c'erano anche a Sentino, l'estate scorsa. Anche lì, tutta la costa di Simanno, Fiume Santo. E cosa c'erano, grazie? Gli squali. Non ce li hai, se no te li mando, e lo vedi. Me li ha mandati Luca. Occhio a chi fa pesca, Lo è tra fatti il bagnetto. Certo. Bebbe. Oggi era lì a cosa, a Plattamona, così. Al quarto pittine. A te li mando, aspetta che te li mando, là. Su WhatsApp, allora, esce, vedi. Aspetta, siamo in mattoni, a tu! No, ti appicca! A tu! Caggiuto sì! Beh, tu, caggiuto a tu, non mi... Ah, secondo me è arrivato a secco. Via. Vai, vai. Non andiamo a mare, no. Oggi, ma quella fame che fa le poveretta, che non fai mangiare, arrivi, realtà arriva, papà. C'è Mari mica te l'ho mandato! Oh, guarda su WhatsApp. Sì, adesso lo guardo. Oh, che ho tirato su Giurudito, c'è altri romani, amici. Luca. Oh? Cadde chi c'ha rubito, ha tirato su Giurudito, o c'è il Romagna. Papito mio. Allucinante che... Ah, trovano un video adesso, tu tipo va, l'udito a forma di bicchieri ora. ne avevo visto uno anche io, proprio, si l'aveva tagliato, travaglieni, c'è terrazza di dito, e l'aveva avuto la vagogna. Per carità, A base quanto è lungo, chi c'è più di 2 metri, a base, a ne vedi, oh yeah, non è trappato il bagnetto, no. Guardami, là ci sono le secche, dentro è riva e frutta. Qua, mi qua c'è un altro, là in famiglia un altro. Altro che due, più di due, finne. Ma poi saranno a mangiare, Luca. Che cosa? Quelli squali. Sì. Caspita, a pigliarlo, un bel di roba di mangiare, un bel di maduro, vai. Proprio vicino alla riva. Andiamo, vai, andiamo. Ma Beh ragazzi, io chiudo là. Che mi devo fare le pennette Barilla. Alla arrabbiata. Vabbè, non ti fanno male. Ehi, già è domenica, domani. Lo bagno, villaggio vicino, dunque sono a posto. Ho capito, occhio mio, mi si bruciano da reddo, già faccio il rubinetto e pongo un culo a muglio. Vi dai rubinetto? Allora, ho fatto il contratto. Se non vi lavi, non fa più come a punirlo. E a chi cosa sembra in Francia? In Francia non nani. Ma anche in Inghilterra pennani bici. Che schifo che. E lì è fatta apposta perché così ti fai far forza la doccia. Capito? Non ne hanno nobili, né in Francia né in Inghilterra. Andava, da. Come dice Tore, andava. Dunque, se per caso ti trasferisci in Francia o in Inghilterra, comprati un bidet e portatela appresso. E poi te lo piazzi. A chi vivi non li vendi. È vero. Allora. E li va a faccia. Grazie. Ehi. E dai, io ho chiuso, dai. Ci sentiamo domani eventualmente, dai. Saluto Luca. Buon proseguimento, se senti a Bacchisio, diglielo. E ci sentiamo, ok, chiudo. Ehi, ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Che coincide. Buonasera, buon tutto, saluto al Correa, anche io ne approfitto a chiudere. Ciao ragazzi, saluto. Buonasera Giovanni. A domani se coincide, ciao Luca, fai da bravo. E la palici la sigaretti pure la dare del razzo. A Marina, pensa lì ditti. Ciao Torre, se sei rientrato e saluto a chi è in ascolto. A domani, vai Lu. Ciao Giovanni, ciao Graziano, buonanotte. Ciao a tu se mi stai ascoltando, alla prossima, ciao. No, ma che sto scherzando che non fumo, a parte non ci sei rimasto io, manco morto. Ma assolutamente, perché a me mi fa malissimo, ciao. Buonasera Giovanni. Ciao, ciao. Chi ha chiamato avanti? Sai che c'era Marino, ciao Marì. Era Marina che saluto. Marino.